50. Zuppa con le cipolle alla francese. Questa zuppa si può fare col brodo o col latte e le seguenti dosi sono sufficienti per 5 persone. Pane bianco grammi 250, gruyère grattato grammi 80, burro grammi 50, parmigiano grattato grammi 40, uova frullate numero 3, cipolle bianche grosse numero 2, brodo o latte circa litri 1,5. Tagliate a fette sottilissime le cipolle e mettetele al fuoco col burro suddetto. Quando cominciano a prender colore, tiratele a molta cottura col brodo o col latte, se la fate con questo, per poterle passare bene dal setaccio. Poi mescolate il passato nel restante liquido per bagnare la zuppa. Il pane tagliato a fette o a dadini, arrostitelo e, collocatolo a strati nella zuppiera, conditelo via via con le uova, il gruyère e il parmigiano. Per ultimo, versate bollente il brodo o il latte e mandatela in tavola. Se la fate col latte sarà bene salare abbondantemente le uova. A motivo della cipolla, chi patisce di scioglimenti non farà male di astenersi da questa zuppa.